immagino che conosciate tutti e la solo la nostra ospite, ma anche la sua provenienza, la sua familiarità con una protagonista della storia, quello che si chiamava Alto Volta, e grazie proprio all'azione compiuta dall'allora presidente, dal giovanissimo presidente della Repubblica Sankara, cambiò il nome in Burkina Faso, e questo personaggio che è morto ucciso, giovanissimo, all'età di 38 anni, è diventato un'icona delle lotte di liberazione del popolo africano e anche un teorico della unità africana e del panafricanismo. Le vicende della sua uccisione hanno un rilievo per la storia del Burkina Faso, però hanno un rilievo addirittura più grande per i problemi dell'Africa e il rapporto dell'Africa con l'Occidente, con l'Europa e con gli Stati Uniti. Si è sempre detto che il colpo di Stato che portò poi alla morte del giovane presidente fu eseguito da suoi ex collaboratori, ma con il sostegno politico degli Stati Uniti e della Francia. E c'erano ragioni politiche forti per questo. Per quanto riguarda la Francia, più volte il Sankara aveva manifestato la sua opposizione politica all'opera di Mitterrand per quanto la Francia faceva a sostegno di Botha, il presidente del Sudafrica, e Mitterrand si era regalardito questa cosa. Più rilevante ancora il rapporto conflittuale con gli Stati Uniti. Sankara è stato ucciso nell'ottobre del 1987, tre mesi prima, e il suo momento politico dirompente più alto, direi, a livello di Africa, ha fatto un discorso all'Organizzazione dell'Unità Africana, l'OUA, ad Addis Abeba, nel luglio dell'87, in cui proponeva all'Assemblea di dichiarare che l'Africa non avrebbe più pagato il debito estero. Era una sorta di dichiarazione politica dirompente verso i finanziatori occidentali e soprattutto verso Francia e Stati Uniti. Non a caso ho letto da qualche parte che l'ambasciatore degli Stati Uniti gli aveva raccomandato di abbassare i toni, di non parlare molto sulle responsabilità statunitensi per l'America Latina. Sankara ha continuato per la sua strada. Ricordo questa storia, questa vicenda del discorso ad Addis Abeba, perché lì sono contenute due o tre cose di incredibile attualità. Il pagamento del debito da parte dei paesi, si diceva una volta, dei paesi più poveri, diciamola tutta, dei paesi più sfruttati, dei paesi colonizzati dall'Occidente, diceva Sankara, ma scusate, dobbiamo pagare questi debiti, cominciamo a vedere l'origine di questi debiti. Il debito per i paesi africani è stato acceso in epoca coloniale. Quindi un rapporto fra colonie e colonizzati. Noi che siamo rivoluzionari, che abbiamo fatto la cerchiamo. anche a questo tipo. Ma qui aggiungeva altre considerazioni molto pratiche. Se noi non paghiamo il debito, nessuno dei nostri creditori lo paga. Se paghiamo il debito, noi lo paghiamo, perché non possiamo campare pagando i debiti. E facevo un'altra considerazione. A parte le origini del debito, molta parte del debito è collegato alla vendita di armi da parte dell'Europa e da parte degli Stati Uniti. Allora, ogni arma importata in Africa è uno strumento di morte contro gli africani ed è uno strumento di arricchimento degli europei e dell'America settentrionale, cioè degli Stati Uniti. Allora, ritorniamo, vediamo l'attualità. C'è la vicenda migratoria, i governanti attuali dell'Unione Europea e soprattutto in questo paese dicono aiutiamoli a casa. Beh, il problema del debito sarebbe davvero un oggetto di aiuto a casa loro, non a parole ma in pratica. Il problema delle armi è altrettanto attualissimo. Le guerre che si fanno in Africa o che si fanno in Medio Oriente si fanno con le armi non vengono prodotte né in Africa né in Medio Oriente, vengono prodotte negli Stati Uniti, in Europa, in Italia, e in violazione anche di normativa europea e italiana si fanno triangolazioni per portare armi di posizione. C'è una guerra, la gente scappa, deve salvarsi, viene in Europa, l'Europa si sente invasa. È anche l'effetto delle politiche economiche, delle politiche estere, della cecità europea. Se avete la possibilità, io vi invito a ascoltare questo bellissimo discorso di Sankara, che assomigliava molto a sua sorella. Era un bel ragazzo, spiritoso, cioè parlava molto, era un oratore, ma parlava con una spigatezza proprio informale. E in questa assemblea ad Addis Abeba, in cui tutti quanti andavano come al solito in modo formale, già che parlavate, lui portava un abito e si vantava che non c'era in quell'abito informale un filo estero, e ciò che noi abbiamo prodotto, coltivato, prodotto, confezionato, e io che sono il presidente e tutti i miei collaboratori proprio portiamo sulla nostra pelle i prodotti del Burkina Faso, ed era un invito a tutti quanti gli altri a far questo. Quel discorso è veramente un pezzo di storia, è facile trovarlo, basta andare in Google, scrivere Thomas e arriva immediatamente il primo e il secondo Thomas Sankara, arriva come primo o secondo documento. Alla fine di questo discorso, lui ripete varie volte: non paghiamo il debito, non paghiamo il debito, e con quei soldi investiamo nella per sfamare, per far vivere i nostri popoli. Alla fine, un po' sorridendo, ma un po' anche mettendoci il cuore, dice a tutti quanti: guardate, non lasciatemi solo a fare questa richiesta, facciamola tutti insieme. Se la faccio da solo, io non parteciperò alla prossima assemblea dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Fu un facile profeta, perché sapeva benissimo che lasciati soli si è più esposti alla rappresaglia. Sarà stato pure il suo ex collaboratore ad ammazzarlo. Però le responsabilità dell'Occidente, europee e nordamericane, sono imponenti. E anche per questo io oggi chiedo, come presidente di questa fondazione, chiedo scusa alla signora Sankara se qui non c'è il pieno in quest'Aula, perché siamo anche noi i responsabili, anche se siamo opposizione a questa cultura coloniale, siamo tutti responsabili e corresponsabili per le atrocità che l'Europa ha commesso in Africa e che purtroppo sta ancora commettendo contro i popoli africani, a cominciare dai migranti. Ecco, io ho dato alla signora Sankara la dichiarazione dei diritti dei popoli redatta dal Geri, da Lelio Basso, dai suoi collaboratori. Per quanto possiamo fare noi, siamo fortemente ancorati questo impegno e nei limiti della modestia, pure delle nostre forze, il sostegno alla causa per cui è in Europa e in Italia in questo momento, avrà da parte nostra tutto l'appoggio. D'abord, remercier monsieur le président d'avoir su bien camper. Mettiamoci qualcuno davanti, perché se no preoccupa. In sintesi, ogni periodo conclusivo. Sì. No, ma c'è Stefania, bravissima. Alessia. Bene. Donc, merci Monsieur le Président pour d'avoir su bien camper le contexte. Je sens qu'il a beaucoup lu, il a beaucoup compris, mais vraiment le lien entre la lutte à l'époque des années 80 avec ce qui se passe aujourd'hui. La lutte des années 80 avec un problème, des problèmes locaux, le lien entre des problèmes locaux et des problèmes globaux. Ringrazio il presidente per aver inquadrato così bene la questione. Si capisce che ha letto non solo, ma ha capito proprio la questione del legame forte tra Occidente e le lotte locali e globali. Et dire aussi que la question du public n'est pas un problème. Déjà qu'il y ait une oreille, une seule oreille attentive, c'est déjà important. On peut avoir un beau public, un grand public, mais ce n'est pas ça l'important. Même s'il y avait une, deux personnes, mais qu'ils soient vraiment attentives, pour moi c'est le plus important. La question du public non est assolutamente un problème. È più interessante avere delle orecchie attente piuttosto che avere un grande pubblico che magari non ascolta. A me, io sono contenta anche così. Aujourd'hui, partout, che ce soit au Burkina ou dans la sous-région, c'est-à-dire les pays à côté du Burkina, et même au-delà, peut-être on va dire même toute l'Afrique, on parle de Sankara. On parle de Sankara, on parle de ce qui s'est passé pendant Sankara au vu des réalités que nous vivons en Afrique et au Burkina. On parle de Sankara, on parle des actions qui ont été faites, de la vision et de la lutte, et vous venez de le rappeler. Oggi, con tutto quello che sta succedendo in Burkina e in Africa in generale, si parla sempre di più di Sankara, della sua visione e di tutto quello che ha fatto. Ed è proprio quello che avete evocato, che ha evocato all'inizio nella sua introduzione. Mais on dit c'est ça reste dans le domaine du discours. Jusqu'à présent, il est cité, ses phrases, ses discours sont cités, sont reprises partout, mais ça reste dans le domaine du discours. comment transformer ce discours-là en action, en l'idée-là, en produit? Et c'est encore la question qu'on se pose aujourd'hui. È vero che tutti parlano di Sankara, ma resta soltanto un discorso. Discorsi e belle parole, però la questione che ci poniamo oggi è come trasformare questi discorsi in qualche cosa di concreto. Che cosa può uscire fuori da questi discorsi? E come lui-même il le disait, il dit les peuples qui exploitent, non, les personnes ou les systèmes qui exploitent l'Afrique, c'est les mêmes aussi qui exploitent l'Europe. Donc c'est pas parce que c'est des Européens, mais c'est des systèmes et c'est les mêmes qui exploitent l'Europe, qui créent des problèmes en Europe, qui exploitent aussi l'Afrique. Donc nous avons, je pense, le mot n'est pas beau, mais je le dis parce que j'ai pas autre chose à dire, remplacer, on a des ennemis communs. On a un ennemi commun qui exploite l'Europe, l'Occident, et qui exploite aussi cette même Afrique-là. Diciamo che oggi abbiamo un nemico comune, riguardo anche al, appunto, al discorso che lei ha fatto nell'introduzione, abbiamo un nemico comune in Africa, in Europa e nel resto del mondo, le persone che sfruttano l'Europa sono le stesse che sfruttano l'Africa, quindi in questo senso abbiamo un nemico comune. C'est pourquoi le partage d'expérience, l'union des forces de synergie, est très importante parce qu'on a souvent les mêmes réalités et à quelques différences près et partout, que ce soit en Afrique ou ici en Occident, on a les mêmes réalités quelquefois. Je vais prendre peut-être l'exemple de la question de la souveraineté alimentaire avec que je connais le mieux, avec la question des paysans. Ce que les paysans vivent aujourd'hui en Occident, c'est la même réalité qu'en Afrique. Les paysans ont des problèmes en Europe comme en Afrique. Mais c'est un système qui exploite ces paysans-là. C'est le même système qui les exploite. À part qu'en Afrique, c'est, à quelques différences près, c'est des questions de vie ou de mort chez nous. Parce qu'ailleurs, peut-être, il y a des subventions et tout le reste pour résister. Et que chez nous, bon, on est encore à... Voilà, si on ne le fait pas, cette majorité-là va disparaître, cette majorité-là et va venir en ville, dans la capitale. Cette majorité-là ne va pas trouver de travail dans la capitale, cette majorité-là va venir ici en immigration. Elle va continuer toujours à venir. Ah bon? Pardon. Allora, quello che è molto importante proprio di fronte a questo nemico comune è assolutamente importante, crediamo che sia molto importante creare delle sinergie, è quello che ci può dare la forza. Partiamo per esempio dal discorso della sovranità alimentare. I contadini sfruttati in Africa o sfruttati in Europa più o meno vivono le stesse condizioni, con delle differenze chiaramente, per noi a volte è una questione di vita o di morte. Però un sistema simile che sfrutta la stessa categoria in un contesto e in un altro contesto. Oui, c'est ça. Donc même pour faire le lien avec ce qui se passe ici en Italie, la question centrale, la question de l'immigration, tant qu'on ne résout pas même ces questions-là en Afrique, de par exemple, ce n'est qu'un exemple, de la question de l'exode rural, il ne faut pas s'attendre à changer aussi grand-chose. Je l'ai dit, les paysans abandonnent leur travail, les jeunes, ils viennent en ville, il n'y a pas de travail, c'est le chômage. On tente l'aventure en Occident et ça va continuer. Collegando questo discorso al problema dell'immigrazione dei nostri paesi, è un sistema agricolo basato appunto sullo sfruttamento che fa sì che i giovani abbandonino le campagne per venire in città a cercare un lavoro. Non c'è possibilità di lavoro in città, tentano l'avventura e partono. Per cui bisogna risolvere la questione alla base, per questo per noi è importante la sovranità alimentare. Voilà, donc ça c'est pour parler des liens, des synergies que nous pouvons, nous devons avoir ensemble, Occident comme Afrique. Mais pour revenir... Questi sono proprio, per questo è importante, sono importanti i legami, le sinergie che possiamo avere tra popoli di Occidente e africani. Pour parler de pourquoi on parle tellement de Sankara aujourd'hui que nous-mêmes, quelquefois, quand je dis nous, famille, on est surpris. Parfois, même les Burkinabés, quand tu vas à l'extérieur, tu es surpris qu'on parle autant de Sankara. Mais pourquoi parle-t-on tellement de Sankara aujourd'hui? Ritorno adesso sulla questione proprio di Sankara. Perché poi si parla tanto di Sankara oggi? A noi come famiglia, ma anche ai Burkinabè, ci sorprende ogni volta che andiamo all'estero di vedere che se ne parla così tanto. Parce que le Burkina a su être un laboratoire de processus de développement dans les années 80. Il Burkina negli anni 80 ha saputo essere un laboratorio di sviluppo. Il avait été simplement dit dans ces années-là au Burkinabé qu'il fallait qu'elle travaille elle-même, fallait qu'elle se lève et qu'il n'y a pas de Messie qui va venir nous sauver. Semplicemente Sankara diceva che arrivando conducendo la rivoluzione diceva alla popolazione che era di Burkinabé dovevano prendersi in carico da soli senza aspettare per forza un Messia che veniva e li salvava. Per cui era il momento di lavorare per se stessi. Ce n'est ni la coopération, ni quoi, qui que ce soit qui va venir faire notre bonheur à notre place. Non era la cooperazione, nessun altro che doveva venire a costruire per noi la nostra felicità. Voilà, c'est à nous de nous lever et de partir des réalités simplement. Quels sont nos problèmes aujourd'hui? Quelles sont nos difficultés, nos réalités au quotidien? Et quelles solutions pouvons-nous trouver a nostro livello par rapport a nos difficoltà? Eravamo noi che dovevamo organizzarci e trovare delle soluzioni adatte alle nostre realtà, delle soluzioni alle nostre difficoltà e adatte alle nostre realtà. E ça, le popolazioni l'avaient très bien comprise, elles se sont impliquées dans ce processus de développement-là. Ce qui a fait que rien n'était impossible. Rien ne nous était impossible. Et on a tout fait. On a tout fait à l'époque parce qu'on avait une destinée commune. On avait un exemple qui venait de là-haut. Et questo la popolazione l'aveva talmente ben interiorizzato che c'era una mobilitazione che ci ha permesso di fare tutto quello che avevamo immaginato. Avevamo un destino comune e avevamo soprattutto un esempio dall'alto. D'abord, si on prend simplement le nom du changement du pays, dès que la révolution est arrivée, une année après, on a changé le nom du pays. La Haute Volta est devenue Burkina Faso. Et au-delà du changement de nom, c'était très très profond. C'était très profond ce nouveau nom-là. De dire qu'on fait une rupture avec la colonisation. Une rupture en changeant le nom, mais une rupture qui devait se faire aussi dans nos têtes. Qu'on n'était plus décolonisés et il fallait prouver qu'on n'était plus décolonisés. Un primo atto che può apparire simbolico è stato il cambiamento del nome, quindi da Alto Volta a Burkina Faso, che vuol dire terra delle persone integre, unisce due parole di due lingue diverse maggioritarie in Burkina. E, in realtà era un cambiamento profondissimo perché rompeva con un passato coloniale e di dipendenza. On avait demandé de refuser de parler de fatalité. Il n'y avait plus de fatalité en ce moment. On ne parle plus de fatalité. Mais c'était de vraiment voir comment regarder le Burkina de façon positive. Comment voir notre avenir, oser inventer l'avenir de façon positive par nous-mêmes. C'était ça le Burkina Faso. Non si parlava più di fatalità, ma era veramente un laboratorio per costruire le condizioni per la nostra stessa felicità. Era un osare inventare l'avvenire di maniera positiva, quindi una fase costruttiva, e questo stavamo vivendo in Burkina. E a partir de cet instant où on a compris que on devait être fier, les Burkinabés étaient fiers à nouveau, et le Burkina Faso c'était la souveraineté, le Burkina Faso parlait d'indépendance, et à partir de cet instant nous étions fiers et nous, on pouvait commencer maintenant la construction du processus de développement. Mais il fallait comprendre d'abord cette rupture-là et être dans cette posture qu'il fallait aller dans une façon de voir les choses positive et une rupture mentale. une rupture mentale qui nous permettait d'entrer maintenant dans la construction du développement du pays. È stata una questione anche di attitudine, eravamo pronti, avevamo interiorizzato, c'era cioè un'attitudine differente rispetto al divenire del nostro paese. Et donc c'est ça, le changement du nom du pays. Et après ça, il fallait passer à l'action. Donc des idées, on est passé à l'action. Et l'exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, venait d'en haut. C'est-à-dire que ce même, le gouvernement, l'État, qui parlait de ça, a commencé par le premier responsable, le président, Thomas Sankara, lui-même, ce qu'il disait, il le faisait. Donc réduire le train de vie de l'État, par exemple, est un exemple. On a changé les véhicules tout de suite de ministériel. Les Mercedes ont été remplacés par des Renault qui consommaient moins parce qu'on n'avait pas les moyens d'entretenir des Mercedes. Donc ça, c'était la façon. Et même que tout ministre vivait à partir de son salaire. Il n'y avait pas d'avantage en tant que tel. Ils étaient obligés de déclarer les 3-4 premiers responsables leurs biens avant de commencer à travailler et chaque année de déclarer les biens. Donc c'était un moment quindi di passare all'azione. Era il momento di passare all'azione e la cosa l'esempio diciamo interessante era che l'esempio veniva da chi stesso ci governava, per cui dal presidente lui stesso. E le prime azioni vengono fatte sulla classe politica, per cui si viveva del proprio stipendio senza privilegi, erano state vendute tutte le auto blu, diciamo le Mercedes, erano state a comprare delle Renault utilitarie R4 R5 sì, che consumavano di meno e costavano di meno, e c'era la dichiarazione pubblica dei beni annualmente, quindi questo esempio che veniva dall'alto. Un autre exemple, c'est quand les ambassadeurs, les nouveaux ambassadeurs des pays occidentaux ou n'importe quel pays faisaient leurs lettres, comment on appelle, de créance. Les nouveaux ambassadeurs, c'était pas en ville, dans un salon. On les amenait dans un village. On choisissait un village, on les amenait là, et c'est là qu'ils allaient présenter leurs lettres de créance devant la population dans un village. Donc ils faisaient tout le trajet. Ils se rendaient compte des routes chaotiques qu'il y avait au Burkina et des réalités du Burkina. Un ambassadeur qui est au Burkina se rend compte des réalités réelles du Burkina, au-delà de Ouagadougou qui est la capitale, au-delà des salons feutrés de Ouagadougou. Le altre azioni simboliche, insomma, altre azioni che davano l'esempio era per esempio l'accoglienza degli ambasciatori. Quando al momento della presentazione ufficiale degli ambasciatori non li riceveva nelle sale lussuose dei palazzi, ma li portava in un villaggio, per cui l'ambasciatore aveva modo di conoscere le strade sterrate e polverose del Burkina uscendo da Ouaga, e l'ambasciatore rimetteva la sua lettera di presentazione davanti a tutta la popolazione del villaggio. Era un modo per far conoscere le realtà del paese anche a chi veniva. Donc quand je parle de ça, je ne parle pas en termes d'idéal qu'il faut avoir, mais c'est surtout quand on regarde ce qui s'est passé dans ces années-là, on se dit que le Burkina est capable d'atteindre des objectifs beaucoup plus performants et beaucoup plus efficaces que ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Se confrontiamo la situazione con quella attuale, ci rendiamo conto che il Burkina ha capacità veramente molto più alte di quelle messe in gioco attualmente. Surtout en termes d'indépendance, en termes de développement, il y a eu tellement d'exemples que d'aucuns ont pensé à, comment ça s'appelle ce mot-là, à du populisme. Non, comparé à du populisme, mais sauf qu'il y avait des actions et il y avait une implication, une participation réelle de la population. E non era una questione ideale, perché le azioni erano concrete, qualcuno parlava di lui come populista, ma non era reale, perché c'erano delle azioni che seguivano sempre a ogni discorso. Donc le Burkina Faso, bon, peut-être certains savent, à une population analphabète, à plus de 80% analphabète, et donc 10 à 15% qui sont ceux qui comprennent ce que c'est qu'un État. Tout le reste, ce sont des gens qui observent et qui ne participent pas parce qu'ils sont des spectateurs d'un développement qui les concerne, mais dont ils n'ont pas réellement les prises en charge du fait qu'ils sont analphabètes, alors que c'est les plus nombreux, 80%. Ils sont les plus nombreux, mais c'est eux qui doivent suivre ce que les autres, les soi-disant intellectuels, les soi-disant ceux qui ont fait l'école, simplement, je les appelle, et pilotent ce développement-là. In Burkina l'80% della popolazione vive in ambito rurale e c'è un altissimo tasso di analfabetismo. Ed è assurda questa situazione per cui c'è un 10-15% di intellettuali, Blandin dice semplicemente persone che sono andate a scuola, che deve pilotare la vita politica di un paese e l'80% della popolazione deve rimanere a guardare perché non può partecipare, non può essere partecipe. In quanto analfabeta non viene coinvolta in quanto analfabeta ma viene lasciata come spettatrice. Il y a eu par exemple ce qu'on appelait, tu arrivais dans la ville de Ouagadougou, on avait des grands panneaux avec des mots d'ordre avec les trois luttes. Ça même à l'école primaire c'était écrit les trois luttes par rapport à la question de l'environnement déjà dans les années 80. Donc la lutte contre la divagation des animaux parce que c'était une réalité qui créait beaucoup d'accidents et qui mangeait les cultures. Donc la lutte contre la divagation des animaux, la lutte contre les feux de brousse, parce que ça aussi c'était une réalité qui créait la désertification, et la lutte contre la coupe de bois abusive pour faire la cuisine. Donc par rapport à la question de l'environnement, il y avait ces trois luttes-là, et dont les populations s'étaient accaparées. Durante la rivoluzione invece proprio per fare in modo che il paese vada avanti in una maniera unita, che la popolazione delle campagne in ambito rurale partecipasse, era stata lanciata per la questione, però erano state lanciate delle parole d'ordine, venivano chiamate le tre lotte di protezione dell'ambiente contro la divagazione degli animali, che era una realtà per cui andavano in giro per le strade o soprattutto a mangiare le colture nei campi, contro il taglio abusivo degli alberi e contro il fuoco, era una pratica di raccolta, si raccoglie, si brucia per fertilizzare il terreno, si cambia terreno per un anno e poi si ritorna, però questo alla lunga deteriora le capacità del suolo. Quindi era proprio per responsabilizzare la popolazione rurale, si era partita, una delle prime azioni che il governo rivoluzionario fece fu questo di lanciare queste tre lotte in modo che tutti si sentissero responsabilizzati sulle questioni ambientali. Et toujours dans la question de l'environnement, il avait été demandé à chaque événement, grand événement de la vie de l'homme, de planter un arbre. Que ce soit une naissance, un baptême, il fallait planter un arbre. Que ce soit un mariage, que ce soit un décès, tout grand événement, on devait planter un arbre. Et tout ça, c'était des actions, des petites actions pour la lutte contre la désertification, pour la question de l'environnement. Un'altra azione che veniva chiesta alle persone proprio per partecipare a questa protezione dell'ambiente di maniera collettiva era di piantare un albero per ogni occasione importante della vita, battesimi, matrimoni e funerali. Mm-hmm. Donc je prends ces exemples parce que c'est aujourd'hui des problèmes d'actualité qui se discutent dans le monde, et même au Burkina, et c'est comme si c'est tout nouveau alors qu'on avait déjà réfléchi et pensé a ces problèmes-là avec des actions, des petites actions très très concrètes. Vi sto raccontando queste questioni pratiche perché sono problemi che si ripropongono in maniera dirompente anche oggi, e che se avessimo continuato invece su quel percorso oggi non avremmo avuto questi problemi. C'est aussi comme la question de la femme, l'émancipation de la femme. On avait Oh. Merci d'être passé. Merci. Il s'est beaucoup battu pour l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme, parce qu'on a compris que la femme est une couche très importante dans notre développement. Et malheureusement, celle qui est mise de côté en matière de, justement, de développement, en matière de gestion de la chose publique, à tous les niveaux, la femme était mise de côté. Et lui, il avait fait de ça, l'émancipation de la femme, son cheval de bataille. Un altro suo cavallo di battaglia fu l'emancipazione della donna, che doveva essere protagonista allo stesso titolo dello sviluppo del paese, mentre veniva messa sempre da parte. Donc l'exemple, c'est dommage que notre ambassadrice qui est ici à Rome ne soit pas présente, parce qu'elle était ministre de la femme à l'époque, c'était elle la ministre. Et il y a eu des exemples, par exemple la reconversion des travailleuses du sexe, ce qu'on appelle les prostituées, la reconversion de ces femmes-là dans le domaine de la restauration. À Ouagadougou, des gens travaillent dans les services, devraient rentrer à midi pour manger avant de revenir à 15 heures. Donc on avait créé des petits restaurants avec des mets locaux pour que ces travailleurs du sexe-là abandonnent ce qu'elles font comme travail pour ce nouveau réintégrer avec la population, avec les Burkinabés, parce que c'était des femmes mises de côté, vues autrement. Donc il y a eu un travail du ministère pour la reconversion, par exemple, de ces femmes-là pour devenir restauratrices, pour nourrir les fonctionnaires burkinabés. Un peccato che l'ambasciatrice, che la nostra ambasciatrice non sia potuta venire oggi, perché lei è stata ministra della famiglia durante la rivoluzione e diciamo era lei che dava impulso a varie iniziative che erano state fatte. Una delle più importanti fu l'accompagnamento delle prostitute alla creazione di un impiego, in particolare nella ristorazione, per cui si erano creati vari ristoranti in cui le persone che in pausa pranzo dagli uffici potevano andare a mangiare, e questo aveva permesso un'alternativa, un impiego alternativo e una, diciamo, reinclusione nella società. Il y a eu ce qu'on appelle le marché au masculin. Le marché au masculin, parce que les hommes chez nous ne vont pas au marché. Ce sont les femmes qui vont faire le marché. Tout ce qui est de l'alimentation, que ce soit la cuisine, que ce soit le marché, c'est du domaine des femmes. C'est comme ça que c'est catégorisé. Mais pour que les hommes aussi se rendent compte des corvées familiales, il avait été décidé un jour dans l'année, au moins il faut que les hommes aussi se rendent au marché et fassent le marché, pour se rendre compte des prix aussi des produits, parce que des femmes venaient demander de l'argent parce que ce n'était pas suffisant. On ne voulait pas croire, mais il était important de les confronter à ces réalités-là. Donc il y avait un jour qui était décidé d'être le marché au masculin. Donc c'était uniquement des hommes qui devaient se rendre au marché. Avevano istituito la giornata degli uomini al mercato, perché da noi da sempre sono le donne che si occupano di andare al mercato e di preparare, per cui è stata istituita questa una volta all'anno gli uomini, questa giornata degli uomini al mercato, in modo che si rendessero conto che cosa voleva dire andare al mercato, comprare, rendersi conto dei prezzi, visto che si lamentavano magari se le donne venivano a chiedere più soldi perché i prezzi dei pomodori o di altre cose erano aumentati. Per cui era stata organizzata e con esiti molto divertenti anche. Donc ce sont des parfaites illustrations du discours par rapport à l'action. Donc des illustrations de ce que la révolution voulait, cette transformation-là voulue par la révolution. Il y a eu des recrutements de femmes chauffeurs dans les ministères et des femmes motaristes qui étaient avec les motos. Quand il y avait le cortège, c'était des femmes. Et juste pour donner aussi la valeur aux femmes et faire comprendre que les femmes aussi étaient capables de rentrer dans ce processus de développement-là. Donc des femmes ont été nommées les premières femmes au niveau du gouvernement, ministre du budget, ministre de la santé et des hauts commissaires, des postes qui étaient réservés à des hommes. Et c'était la première fois qu'on voyait des femmes occuper de tels postes. Per la prima volta donne vennero nominate a posti importanti come al Ministero delle Finanze, al Ministero, la Ministra delle Finanze, la Ministra della, salute, c'erano donne autiste, donne che guidavano la moto durante i cortei presidenziali, posti abitualmente occupati da uomini, ma era per diciamo, dimostrare un'uguaglianza reale, per dimostrare una capacità delle donne ad accedere a qualunque posto. Troisième axe, mais vraiment qui était très, que la révolution a touché de façon profonde, au-delà de l'environnement, au-delà de la femme, c'est la question de l'alimentation, qui n'était pas seulement la question spécifique d'avoir à manger, mais c'était la question d'indépendance, la question de comment on veut être dorénavant. Donc la valorisation des produits burkinabé. Valorisation des produits burkinabés pour dire que nous aussi, on a des produits de valeur. Mais ça ne peut pas commencer par quelqu'un de l'extérieur. Il faut que ce soit nous-mêmes qui valorisons et qui apprécions ces produits-là avant que l'extérieur ne les apprécie. Donc il y avait eu en tout cas un travail pour la valorisation de ces mets locaux-là jusqu'à la présidence. Parce que quand on recevait avec les mets locaux. C'è un altro asse importante sul quale ha lavorato la rivoluzione, oltre alla questione ambientale e alla questione femminile, ed è quello dell'alimentazione. Non solo in termini di cibo, per cui di nutrimento, ma con una visione proprio di sovranità e di identità alimentare. Si dava molta importanza ai prodotti locali e a cominciare appunto dalla stessa presidenza che in occasione di pranzi o cene, presentava ricette, piatti a base di ricette locali, prodotti locali e c'era questa volontà di valorizzare le produzioni locali. Parce qu'on avait compris che c'était une forme de colonisation, la question de l'alimentation. Era chiaro che era già anche la questione dell'alimentazione era una forma di colonizzazione. Donc, quand il y a eu, par exemple, la vie chère, ce qu'on appelait la vie chère, l'augmentation des prix de produits de base, qui n'était pas un problème burkinabé, mais c'était un problème mondial avec des répercussions au niveau très local. L'augmentation du prix du pétrole au niveau international qui a eu des répercussions sur le prix des produits de base dans un pays comme le Burkina. Et les villageois, les personnes dans les campagnes qui étaient habituées au pain, le pain, la baguette, qui étaient habituées à cette baguette-là, faite avec la farine de blé, ont dû voir leur boulangerie, même traditionnelle, fermée. Mais ils ne comprenaient pas quel était le problème. Et pour eux, c'était que le gouvernement central avait décidé d'augmenter simplement les prix. Mais ils ne comprenaient pas que c'était un problème mondial qui a eu des répercussions sur le prix de ces produits-là. Donc la question de l'alimentation devenait mais quelque chose pour coloniser davantage et assez facilement et de façon subtile et continuer à coloniser. Quand on prend. L'importazione dei prodotti alimentari è chiaramente un'altra forma di colonizzazione e quindi lavorare sulla sovranità alimentare era un modo per arrivare alla nostra indipendenza. Per esempio, quando ci sono state tutte le proteste contro il caro vita in tutto il mondo, anche in Burkina, le persone non capivano perché. Il caro vita, per esempio l'aumento del prezzo del petrolio a livello mondiale poteva influenzare poi la vita quotidiana dei burkinabè. Chi aveva l'abitudine di andare a comprare il pane al panettiere sotto casa si ritrova con il prezzo raddoppiato. Non c'era mai stata, cioè non c'era mai stata, dopo la rivoluzione non si era più riflettuto sul fatto che se mi vado a comprare il pane fatto con la farina di grano, da noi non è prodotto il grano, per cui è un grano importato, a quel punto l'aumento del prezzo del petrolio arriva anche, sulla mia tavola. Donc, c'est des questions économiques, c'est des questions aussi culturelles, cette question de l'alimentation-là. Quindi è una questione economica, è una questione culturale. Et même politique. Parce que, et quand on prend l'exemple de la farine qui arrivait des États-Unis, nous, on a vécu avec ça à l'école primaire, où on appelait toujours les deux mains qui se serraient, la main noire et puis la main, qui se serraient sur le sac. On nous faisait à manger à l'école primaire. On a tous grandi avec ça. Et c'était l'Américain qui faisait un don aux pauvres Africains. On a tous grandi avec ça. Per esempio, siamo cresciuti con la farina americana, con il logo di una mano bianca, con una mano nera dell'americano che aiuta il povero africano. Siamo cresciuti così. Ma ça permettait aux États-Unis de poser ces conditions à travers cette aide alimentaire-là, qui était rien d'autre que des produits pour les animaux là-bas, parce que c'est les grains de, comment on appelle, le maïs. Qu'ils travaillaient pour les animaux, qu'ils écrasaient pour les animaux, qu'ils nous envoyaient au Burkina, mais à travers cette soi-disant aide alimentaire-là, ils imposaient leur diktat. À travers cet aide alimentaire, les États-Unis pouvaient imposer leurs conditions, leurs diktat, aiuto alimentare che poi non era nient'altro che farina che negli Stati Uniti era riservata agli animali perché erano gli scarti della lavorazione del mais. Jusqu'à au moment che usavamo a scuola come nelle mense scolastiche. Sous la révolution, on a dit stop, si vous voulez nous aider, c'est à nous de définir là où se trouve notre problème et là où nous voulons que vous nous aidez, si vous pouvez nous aider. C'est à nous de le définir. Pas que on prend l'aide, toute aide qui vient. Sankara ha detto basta, adesso chi vuole aiutare lo decidiamo noi che cosa può venire a fare. Non è che dall'esterno si continua a imporre tutto. E c'est là que on disait au Burkina Faso, mais quand on est pauvre, on n'a pas le choix de ce qu'on veut manger. On prend ce qu'on vous donne, mais on ne choisit pas ce qu'on veut manger. Donc c'est là que on parlait de sécurité alimentaire et d'aide alimentaire. Et le Burkina Faso, à l'époque, disait non. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que l'on prend le tout venant, tout ce qu'on vous donne. On peut avoir aussi le choix de définir en tant que pays où nous voulons aller, ce que nous voulons réellement. Et gli si rispondeva quando diceva decidiamo noi in che direzione vogliamo andare, gli veniva risposta, ma quando si è poveri non è che si può rifiutare quello che vi viene offerto e Sankara rispondeva siamo un paese con il diritto di definire dove vogliamo andare. E ça rejoint la question dont il parlait du tissu burkinabé, du tissu burkinabé, de l'habillement burkinabé, parce que c'est des questions politiques, c'est des questions économiques, c'est des questions même de fierté simplement. Pour dire que c'est possible, nous aussi c'est possible. Donc les deux, que ce soit l'alimentation, que ce soit la question du tissu burkinabé, la cotonnade burkinabé, parce que le Burkina produit est l'un des premiers pays à produire du coton, enfin suffisamment beaucoup de coton, et il était transformé à un moment donné. Le coton n'est plus transformé au Burkina, mais transformé ailleurs pour nous revenir sous forme de friperie. Donc ce qu'on appelle chez nous les secondes mains ou au revoir la France simplement. E questo discorso si rifà anche a quello che è stato detto nell'introduzione riguardo ai tessuti locali. Il Burkina è uno dei principali produttori di cotone e appunto durante la rivoluzione è stato dato impulso a questa produzione di tessuti nostri. Per cui i prodotti cotone coltivato in Burkina e trasformato in Burkina prima e dopo la rivoluzione il cotone viene prodotto in Burkina, esportato e ci ritorna indietro sotto forma di vestiti di seconda mano, quelli che noi chiamiamo au revoir la France, cioè addio alla Francia, nel senso che proprio gli scarti che i francesi o comunque l'Europa in generale manda appunto per aiutare i poveri africani. Donc c'est vraiment ces questions-là qui sont des questions mondiales et avec des répercussions très très locales que la révolution avait su adapter ou en tout cas mettre dans ses axes, dans sa vision pour un développement du Burkina. Un autre cas dont on en parle. Quindi affrontavamo questioni globali riadattandole localmente per la definizione dello sviluppo del Burkina. Voilà, c'est même la tomate, la pâte de tomate chez nous. On dit ça vient d'Italie. Depuis la nuit des temps, la pâte de tomate qui est utilisée même dans le village le plus reculé, c'est la pâte de tomate en boîte. C'est Italie. Ça vient de l'Italie. Jusqu'au jour où j'apprends que en Italie, c'est pas cette pâte-là de tomate qui n'a rien de tomate, mais ce n'est que de conservant et la colorant, la couleur et le goût qu'on a mis dedans, fabriqué on ne sait où, pour nous alimenter. Depuis là, on a tous grandi avec ça. Et on ne peut plus se passer de cette pâte. On ne peut plus se passer de ce pain, la baguette. On ne peut plus se passer de X. Donc c'était ça vraiment le travail de décolonisation aussi qu'il fallait faire. Surtout qu'on est à plus de 80% agricole. C'est impensable que dans le domaine de l'alimentation, on soit encore à importer des produits alimentaires. E faceva l'esempio della passata di pomodoro. C'è questa passata di pomodoro che è usata in tutte le case, che si è sempre detto questa è la passata di pomodoro che viene dall'Italia, è un prodotto italiano, i pomodori italiani. Quando poi venendo in Italia lei la prima volta ha scoperto che in Italia non si usa questa passata di pomodoro e effettivamente si è informata, si è resa conto che è un concentrato di colorante, conservanti e come si dice esaltatori del gusto e per cui è un prodotto che viene usato proprio quotidianamente nella preparazione dei pasti, per cui è una questione di decolonizzare anche le abitudini alimentari per ridare valore a tutto quello che è prodotto locale, anche in base al fatto che il Burkina è appunto all'80% rurale, per cui è impensabile che in un paese dove l'80% delle persone sono contadini si debba comprare quello che viene dall'estero. Ouais, ce que je dis, c'est des problèmes qui se constatent partout, hein. Même ici, j'imagine qu'il y a cette façon d'envahir les marchés italiens, les marchés en Occident. Mais je souligne cette question de l'alimentation parce que nous sommes, comme je l'ai dit, à plus de 80% agricoles. La plupart des Burkinabés ne sont pas en ville, ils sont dans les campagnes. Nous sommes tous liés à un village. Tous les Burkinabés qui sont en ville, chacun vient d'un village. Tu ne vas pas parler à un Burkinabé qui n'a pas un village. On retourne toujours au village. On a toujours des parents, des cousins, des oncles qui sont au village et qui vous sollicite en ville permanemment parce que l'agriculture ne marche plus. Parce que nous qui sommes en ville, il n'y a plus cette demande-là de leurs produits. Donc ils sont obligés justement de venir en ville pour chercher du travail parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est l'agriculture. Et vous qui avez un peu plus de moyens, qui comprenez un peu plus les choses, vous ne refusez de consommer ce qu'ils produisent dans les villages. Ils n'ont plus, ils ne savent rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Que de venir chercher à être gardien, à être ceci, cela en ville. Et malheureusement, c'est saturé. Donc la question de l'alimentation est vraiment une question plus qu'importante. Comme je le disais au départ, c'est une question de vie ou de mort dans un pays comme le nôtre. Mi rendo conto che questo problema dell'alimentazione è un problema globale, anche sicuramente l'Italia vive gli stessi disequilibri. Insisto particolarmente sull'importanza che la questione dell'alimentazione riveste per il Burkina, perché appunto l'80% della popolazione vive in ambito rurale ed è contadina. E il fatto di non valorizzare le produzioni locali fa sì che ci sia questo esodo dalle campagne verso la città, per cui si abbandona il lavoro della terra per andare a cercare lavoretti precari in città, ma il mercato del lavoro anche in città è saturo. Ed è assurdo questa attitudine abbastanza generalizzata di distacco dalle proprie origini, perché tutti, ognuno di noi che vive in città ha comunque un legame fortissimo con il proprio villaggio, ha una parte della famiglia, zii, parenti, e non esiste nessuno di noi che non va, torna al villaggio, al suo villaggio regolarmente. E dal villaggio, dai nostri villaggi ormai ci chiamano sempre più spesso per aiutarvi a sopravvivere, proprio perché nelle campagne non si vive più. Donc, à l'époque, on avait demandé, on avait Scusate, no, non si invité. vive più, non si vive più con l'agricoltura. Perché sembra diventare drammatico. Demandé à chaque personne, chaque Burkinabé, dans tous les domaines, de libérer leur génie créateur. Ça veut dire quoi? Chacun dans son domaine, de voir comment nous pouvions aller vers le développement, comment on pouvait changer les choses. Et ça, dans tous les domaines. Même les analphabètes, surtout les femmes. Il y a eu de la créativité, de la grande, grande créativité en ce moment-là. Durante la rivoluzione vennero create le condizioni perché le persone potessero liberare, dare libero sfogo al loro genio creatore. Erano incoraggiate particolarmente le donne e effettivamente ci furono tantissime iniziative innovative che vennero create durante quel periodo. Donc, ce qui se faisait au niveau local des populations était en phase avec la politique de chaque ministère. Par exemple, pour le coton, pour revenir encore à l'art vestimentaire, il avait été demandé que à chaque cérémonie, tout le monde s'habille en burkinabé. Et pour venir à la présidence, même si vous aviez rendez-vous, qui que vous soyez, vous deviez venir habillé avec la tenue burkinabé. Sinon, vous ne rentrez pas à la présidence. C'était une manière de développer le tissage, l'artisanat au Burkina. Et ça a permis à des femmes d'envoyer des enfants à l'école, de nourrir des familles, parce que c'est la plupart, c'est des femmes qui font ce travail de tissage de coton. Quello che era interessante è che non si trattava di iniziative isolate, ma era tutto legato anche con la politica. Per esempio, era stato rispetto alla questione del cotone, era stato chiesto a ogni funzionario pubblico di vestirsi in fazu d'Anfani, che è proprio l'abito tradizionale fatto con il cotone, il tessuto tradizionale burkinabè. E quindi tutti i funzionari, tutte le persone in età pubbliche dovevano vestirsi in fazu d'Anfani. Questo permetteva di dare slancio chiaramente a un'economia che era quella tessile, che era gestita dalle donne, e un grandissimo slancio perché comunque c'era un mercato, c'era una richiesta e questo ha permesso anche a donne di gestire famiglie, poter mandare i figli a scuola, potersi occupare di tutte le questioni familiari. On était même obligé Tu de. racconti San Hein? Calabria, scusa. Praticamente a ogni funzionario veniva appunto richiesto di c'era una specie di pantaloni con giacca fatto in tessuto locale. Era stato richiesto ad ogni funzionario pubblico di vestirsi così per andare al lavoro. Dopo qualche anno la gente era stufa di vestirsi in questo modo, per cui andava al lavoro vestita normalmente e se lo portavano in un sacchetto. Per cui ormai lo chiamavano Sankara arriva, cioè Sankara arriva perché se veniva per caso a fare visita negli uffici, come spesso faceva, perché girava per incontrare le persone, si potevano cambiare velocemente. Donc, on était même obligé de libérer notre génie parce que la politique à l'époque, on n'avait pas que des amis, on avait surtout des ennemis. On avait beaucoup de problèmes avec l'Occident à l'époque, avec la France, le premier, avec la France, notre ancienne colonie et colonisateur. Et l'exemple patent, c'est quand on a abandonné le haricot vert à l'aéroport de Ouagadougou. On a abandonné parce que le Burkina est un grand producteur de haricots verts. Et le haricot vert, nous, on ne le consommait pas. On le produit pour envoyer en Occident. Mais nous-mêmes, on ne le consommait pas dans les familles. Jusqu'au jour où, pour des questions politiques, et l'Union des transports aériens, à l'époque, qui s'appelait UTEA, la compagnie aérienne, refuse de venir prendre le haricot vert du Burkina pour amener en France. Alors, donc, on laisse des tonnes et des tonnes de haricots verts à l'aéroport. Les paysans qui attendent leur dû ne le voient pas venir. Qu'est-ce que la révolution a fait? Il était obligé, le gouvernement à l'époque, d'obliger, entre guillemets, tout fonctionnaire a acheté un carton de haricots verts. Donc dans toutes les familles, il y avait du haricot vert, mais on ne savait pas le cuisiner, on ne le mange pas, on ne l'a jamais mangé, même si on le cultive. C'était pour l'extérieur, ce n'était pas pour nous. Donc à partir de cet instant, on était obligé de libérer justement notre génie créateur. Qu'est-ce qu'on fait avec ce haricot vert qu'on n'a jamais mangé? De mettre avec quoi? De développer, de faire dans le, comment on appelle, dans le, la restauration de rue, de proposer ça. Même les professeurs à l'école et tout le reste, d'acheter des cartons, d'amener à la maison, d'essayer de cuisiner ce haricot vert-là. Uno degli esempi diciamo più eclatanti di questa dipendenza alimentare anche nell'esportazione, perché comunque erano state introdotte monoculture per esportazione, tra cui quella dei fagiolini. Il Burkina era un grandissimo produttore di fagiolini che esportava in Francia e in Europa, ma noi stessi non avevamo l'abitudine di mangiarli. Un giorno, per divergenze, l'aereo francese che doveva portare tonnellate di fagiolini in Francia li lasciò all'aeroporto. Per non farli, chiaramente, per non buttarli, Sankara chiese a tutti i funzionari pubblici di comprare un cartone in modo che i contadini non rimanessero senza il dovuto, insomma. E da allora i fagiolini piano piano sono entrati nell'alimentazione della popolazione burkinabè. Non penso di aprire un petit peu la discussione. Absolument. Donc, pour dire, voilà un peu des aspects sur lesquels la révolution a beaucoup travaillé et qui ont permis aux Burkinabés d'avoir confiance en eux-mêmes. Et ça, c'était la chose la plus importante, selon moi, que je retiens, c'est de nous permettre, en tant que petit pays enclavé, parce qu'un pays face, le Burkina, face à la Côte d'Ivoire à côté, qui a accès à la mer, qui se considérait comme pays un peu plus développé que nous, et on était parmi les derniers dans tous les sens. Donc de nouveau, le Burkinabé se considérait mais avait une certaine fierté et participait et à ce qui se passait dans la construction du développement du Burkina Faso. Jusque dans les villages les plus reculés, il y a des femmes qui étaient les analphabètes, qui étaient des infirmières, des accoucheuses villageoises, avec un petit poste, une case, petit poste de santé primaire où elles allaient de porte en porte pour déceler des cas de paludisme. Donc du coup, elles se sont considérées comme des médecins. Et ça donnait une grande fierté à une couche de la population qui était mise de côté parce que analphabète, parce que villageois. Vi ho raccontato questi diciamo aspetti pratici perché è quello che ci ha permesso come Burkinabè ad essere fieri, a raggiungere proprio una ad essere fieri di quello che eravamo. Ci siamo resi conto che potevamo essere noi paesino piccolo, lontano dal mare rispetto per esempio alla Costa d'Avorio che ci sta accanto, che è un gigante dell'Africa occidentale rispetto a noi. Invece attraverso tutte queste azioni quotidiane ci siamo resi conto di quello che potevamo fare, dell'importanza che potevamo avere, della responsabilità che potevamo avere, ed eravamo fieri di questo. La rivoluzione ha lavorato per ridare dignità ad ogni piccola ad ogni parte della popolazione, appunto abbiamo parlato dei contadini, ma anche le ostetriche tradizionali dei villaggi. Per dire, ogni persona, ogni ruolo veniva preso in considerazione e valorizzato per quello che faceva. Donc c'est vraiment la chose que je retiens parce que j'étais encore très jeune et à l'époque, mais ce que moi je retiens, c'est vraiment ce point-là, d'avoir permis les Burkinabés d'être fiers à un moment donné de notre vie. Io ero giovane durante la rivoluzione, però per me questa è stata la cosa più importante, che in quel momento eravamo fieri di quello che eravamo. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et puis bon, on est en débat. Non, io volevo semplicemente ringraziare Blondine, Blondine Sankara, che aveva 16 anni all'epoca, Cézanne. E che quindi ha visto tutte queste cose che crescevano intorno a lei, ma naturalmente con l'età e la mentalità di un adolescente, e non ha potuto rendersi conto in quel momento di quello che stava succedendo nel paese. Ma ora, ritornando indietro, dice: o noi riusciamo a riprendere lo spirito, l'entusiasmo, e anche capire lo stretto legame che c'è tra locale e globale nella questione dello sviluppo del Burkina Faso, ma in realtà di ogni paese in via di sviluppo, noi non riusciamo a uscire fuori da questa situazione, perché questa situazione è stata minata da anni e anni anche di condizionamento dei gusti, delle mentalità, delle conoscenze. E quindi, parlando prima con lei e con Franco Ippolito, riflettevamo su queste, che molte di queste cose che ci ha detto oggi sono straordinarie, perché noi non ci rendevamo conto di quanto il messaggio della rivoluzione di Sankara entrasse nei dettagli, cioè questi minuti dettagli, mandare gli uomini al mercato a fare la spesa. Naturalmente questi gesti simbolici, dalle macchine al vestirsi, eccetera, che possono anche sembrare un po' naive, e invece hanno avuto questo grande compito di restituire dignità a un paese che lottava allora. Io sto leggendo ora delle memorie di grandi intellettuali africani degli anni 50 come Acebe, Ngugi, Soyinka, eccetera. Erano in realtà anni diversi, perché c'era un futuro di aspettative dell'indipendenza, della liberazione dal colonialismo, che rendeva la loro partecipazione naturale. Ma a metà anni 80 vi assicuro che in Africa non si muoveva quasi nulla, no? Era la decade perduta secondo la Banca Mondiale, e avere una persona come Thomas Sankara che è riuscito a coinvolgere la popolazione in un tentativo di decolonizzazione, non delle istituzioni, dell'economia e basta, ma anche proprio delle pratiche quotidiane, del vissuto quotidiano e delle mentalità. Credo che oggi per questo motivo Sankara ancora oggi è un mito. Io in quel famoso discorso di cui parlavo prima, esatto, uno dei punti che sottolinea è che le nuove forme di colonizzazione non hanno bisogno di militari ed eserciti, perché la colonizzazione in atto si realizza con il modello culturale imposto attraverso mass media, giornali, mentalità. Guardate, il pane è una questione proprio straordinaria. Quando voi abituate un paese per 60 anni a nutrirsi giornalmente della baguette, fatta con una farina che non si produce nel posto, è chiaro che voi avete, come dire, poi dopo diventa impossibile non avere più la baguette fresca nel forno quotidiano alla mattina. Però, come dire, tutto questo si paga carissimamente, perché bisogna comprare fuori questo bene, perché non è prodotto localmente. Quindi questo tentativo di ritornare al locale, di riabituare i burkinabè a fare uso delle loro risorse, delle loro produzioni e soprattutto della loro conoscenza di sé, fiducia in loro stessi, credo che è stato un contributo a suo modo straordinario per l'Africa di ieri e, diciamo, per il mondo di oggi, in cui questa cosa è ancora, a mio avviso, molto attuale. Signora. Sì. Io volevo dire che sono molto d'accordo con i contenuti politici che signora ci ha proposto, sono anni, appunto, tutto è stata tutta una fase dove appunto alcuni valori sono stati considerati centrali, che poi è un discorso di democrazia, del coinvolgimento delle persone, della centralità della figura umana, e quindi anche della universalità, perché poi si acquisisce. E io credo che il progetto politico sia determinato, perché si basa su questo grande umanesimo, su questa grande concezione dell'arte, dell'esaltazione e celebrazione della femminilità. Io credo che poi si possa facilmente passare ad un discorso di universalità da questo periodo. E allora ecco anche il rapporto della globalizzazione, dello scambio, del rapporto con l'altro, che significa non dimenticare, per carità, la soggettività delle varie relazioni è fondamentale, però significa acquisire questa dimensione universale di globalizzazione, come adesso sta avvenendo infatti tutto il discorso sempre con Et l'universalité du message de Sankara. I nostri giornalisti ci vogliono chiedere qualcosa? No, sono giornalista. Diciamo che io, il mio settore è fondamentalmente le lotte di liberazione delle colonie portoghesi. La marcia per il sale, ma soprattutto ai tessuti, cioè anche Gandhi voleva vestirsi di tessuti diciamo che erano prodotti in India, cioè c'era proprio, ci sono vecchie cose che riemergono in una situazione giustamente completamente cambiata e molto più complessa, come diceva lei, di locale proprio, e tra l'altro ricorre in parte anche in Europa, le zone limitrofe d'Europa. Io vivo a Cagliari e ho visto quante cose, tra l'altro purtroppo sono state anche travisate in Sardegna dal punto di vista politico sulla la questione cosa. Del latte del pastore che è stata utilizzata in modo pesantissimo da Salvini e addirittura il partito Stato d'Azione che è stato fondato da Emilio Lussi, poi è diventato Lenin. Quindi cioè, tutte queste cose mi fanno pensare, ma voglio rimanere un po' sullo specifico, la qualità dell'indipendenza che mi colpisce, mi fa pensare anche a una realtà storicamente lontana come quella di Cabrale della Guinea Bissau, degli 11 anni di lotta di liberazione, dove però queste cose emergono. Mi è capitato di parlare a lungo con Anna Maria Cabral e lei appunto ricordava come la donna viene fuori in modo completamente diverso dalla situazione precedente. C'è una liberazione della donna, per esempio, cioè la Guinea Bissau aveva allora la proprietà comune della terra. Quindi io sono arrivato tra l'altro da antropologo attraverso Meliassuna, alle società segmentarie che hanno vissuto una rivoluzione durante gli 11 anni della liberazione. Certe cose, poche cose ormai sono rintracciabili, però esistono. C'è stata un'esplosione dei matrimoni d'amore, così sono stati definiti, cioè si rompeva il vincolo col capo villaggio per non c'erano più matrimoni combinati. Ovviamente non è la situazione, penso, del Burkina Faso, però diciamo in ogni caso il problema per esempio dell'escissione, dell'escissione del territorio della donna in Guinea Bissau era un problema, è stato messo in discussione, tutto questo è stato messo in discussione. Devo dire che della Guinea Bissau attuale poco è rimasto purtroppo anche lì è successo la stessa cosa. forse l'unica realtà che un po' si salva, dove non c'è stata un'altra deliberazione, è il Capoverde, ma ha vissuto una storia diversa. Quindi anche questo è un paese estremamente povero, però anche un paese molto, molto più piccolo e con molti meno abitanti, insomma è difficile fare paragoni, però l'idea di indipendenza, l'idea di di creare una classe dirigente, soprattutto creare una classe dirigente che era molto importante per Cabrale, per Agostino Neto e per Edoardo Modlane. Eliminando però la classe. Come? Eliminando quello che lui chiamava i piccoli borghesi che dovevano suicidarsi. Si parla di suicidio, quindi, della piccola, suicidio della piccola borghesia. Secondo me richiama un po' un elemento della loro formazione. La loro formazione in fondo proviene da MSZ, da Negritude, e cioè io ho rivisto certe cose proprio sull'Orfeo Nero, l'introduzione di Sartre alla famosa antologia del 48, appunto dove veramente c'è Orfeo che è un, diciamo che è un qualcosa che ha, c'è l'idea di morte insomma e di resurrezione in un certo senso, quindi è un'altra storia. Certo. Forse possiamo chiedere però, ma quel è le rôle de Cabral, par exemple, sur son terrain? Quelle était son attitude envers les luttes de libération? Ouais. Comme il le disait lui-même, Thomas, la révolution burkinabé n'est pas à classer. La question que les journalistes posaient par rapport à notre modèle de révolution, il disait qu'elle s'inspirait de toutes les luttes du monde entier. C'est pas seulement africain, au niveau africain, mais toutes les luttes, là où il y avait injustice, on s'inspirait de ces modèles-là. Donc c'est la somme, si on veut, de plusieurs expériences, de plusieurs luttes. Ce n'est pas uniquement qu'au Burkina, on a créé un modèle, j'allais dire nouveau, mais on s'est inspiré de pas mal d'expériences. On a voulu classer ce... Le è stato chiesto in che modo Sankara si ispirava si è ispirato a Nicolas Cabral e Blandi risponde che Thomas lo diceva sempre che non voleva che la rivoluzione fosse etichettata o catalogata in qualche modo. Lui diceva sempre che si ispirava a tutte le lotte di liberazione, a tutte le lotte di liberazione dei popoli contro le ingiustizie in qualunque parte del mondo, per cui sicuramente anche i modelli africani, ma non solo. Par exemple, il cite dans un de ses discours, je ne sais pas si c'est à comment on appelle à New York là le sommet de, aux Nations Unies, qu'il a cité un poète allemand, Novellis. Quand il a cité Novellis, beaucoup étaient surpris qu'un Africain cite Novellis, qu'un militaire cite Novellis. Il est Africain, il est militaire, et qu'il cite un poète allemand comme Novellis, ils étaient surpris. Pour dire quoi? C'est pour dire qu'on s'est inspiré de pas mal de choses. On n'était pas fermé, on n'était pas, c'est pas un modèle créé et qui est sorti de nulle part. Per esempio, appunto, non siamo un modello chiuso, ma abbiamo avuto varie ispirazioni diverse. Per esempio, erano tutti molto stupiti dal fatto che Sankara avesse citato un poeta tedesco, Novellis, al suo discorso all'ONU a New York. Noi lo chiamiamo Novellis. Però per dire, appunto, non è che ci limitavamo a seguire quello che era già stato fatto in Africa, ma era, prendevamo ispirazioni dal mondo intero. Donc Cabral, c'est sûr, quelque part du Cabral, quelque part du Krumah, Kwame Nkrumah, quelque part de même Modibo Keïta, quelque part de je ne sais pas qui, mais c'était vraiment elle s'est inspirée, cette évolution-là, de beaucoup de modèles par rapport à nos réalités burkinabées que nous avions. Et on a voulu même demander, est-ce que vous êtes de quel socialisme? Vous êtes socialiste? C'est une révolution socialiste, mais socialiste marxiste, ou bien socialiste de la Corée du Nord, ou bien c'est socialiste de l'URSS, de quel... Donc lui, il répondait, mais on est... Il ne faut pas essayer de nous classer. Pourquoi vous voulez nous classer? Il ne faut pas essayer, parce que c'est ça aussi les contradictions. D'où viennent tous les problèmes? Parce qu'on essaie de classer. Nous, nous avons nos réalités qui ne sont pas des réalités de Moscou, qui ne sont pas des réalités de la Corée. Et il avait même plaisanté en disant, est-ce qu'il neige au Burkina? Les soviétiques se sont battus parce qu'ils avaient des réalités dues à des conditions de vie de chez eux. Mais chez nous, c'est des conditions différentes qui nous amènent dans des directions différentes. Maintenant, si ça ressemble à ça, ou si on s'est inspiré dans nos lectures de ci, de ça, tant mieux. Mais ce n'est pas dire qu'on copie exactement tel modèle, parce que chaque environnement a ses particularités. Contro questa tendenza che c'era, vorrebbe necessariamente classificare, catalogare la rivoluzione, per esempio chiedendo se era socialismo di ispirazione russa, socialismo di ispirazione nordcoreana. Tommaso rispondeva sempre che rispondiamo alle nostre esigenze, alla nostra realtà. In Burkina non nevica come a Mosca, il popolo russo si è rivoltato contro, ha fatto la sua rivoluzione contestualizzata per quella realtà, e noi andiamo avanti per, rispondendo alle esigenze del nostro contesto. Donc moi je dis on n'invente rien, on s'inspire de ce qui est déjà fait, mais la capacité, le courage d'oser en ce moment-là, dans ces années-là, et aller contre le modèle, la pensée unique. Et c'était ça qui faisait peut-être la différence. C'était ça qu'on retenait. Il y a eu d'autres modèles, mais en ce moment, qui retourne à ces modèles-là? Qui repense à ces modèles? On ne repensait plus à ces modèles-là. Donc il y avait le bloc S ou S. On est soit à gauche ou à droite, mais oser choisir un modèle qui s'inspire de l'Occident, des modèles qui s'inspirent des Africains, des modèles qui s'inspirent. C'était ça aussi la richesse de cette révolution-là. Parce qu'on avait des problèmes, et face à ces problèmes, on pouvait aller chercher des modèles à adapter à nos réalités simplement. Era proprio questa anche la ricchezza della rivoluzione, ispirarsi da modelli africani, europei, di altri paesi, creare anche legami, di la via de lien aussi avec con la Palestina, i Sahrawi, con il Nicaragua, sono state creati anche dei legami con queste realtà. E per cui non era possibile classificarsi, stiamo col blocco sovietico o col blocco statunitense, ma avevamo la nostra particolarità, avevamo anche questa libertà di poterci ispirare e di poter riadattare delle politiche al nostro contesto. Oui, c'est en ce moment qu'on entendait effectivement parler de la lutte des peuples sahraoui, des palestiniens, et dans nos permanences, parce que ça aussi c'est une forme de démocratie de haut niveau que nous avions à l'époque, c'était que dans chaque quartier était organisé, chaque village était organisé. Et on avait ce qu'on appelle une permanence, où on pouvait se retrouver comme ça, pour des débats. Mais ce n'était pas seulement sur les problèmes du Burkina. C'était que, ici, il y a un peuple qui est en train de lutter pour son autodétermination. Donc on nous apprenait à connaître aussi les problèmes qui se passaient ailleurs. Pas seulement être enfermés dans nos réalités burkinabées, mais ailleurs aussi, d'autres peuples subissaient des injustices dont il fallait s'informer e partecipare a ce qui se passe dans le monde. Era molto importante per noi questo internazionalismo, ed era anche presente in una che è stata una delle più grandi forme della nostra democrazia, ossia la costituzione di permanenze, le permananze, cioè in ogni quartiere, in ogni villaggio ci si ritrovava, c'era un posto dove ci si ritrovava a discutere, no, dei problemi burkinabè e dei problemi di quello che succedeva ad altri popoli oppressi, appunto all'otto di liberazione in corso in altre parti del mondo. Conoscevamo tutto del degli altri paesi, del Nicaragua, c'era una grande tendenza all'internazionalismo per sentirsi uniti nella lotta di liberazione. Et c'est là que le président angolais Eduardo dos Santos est venu au Burkina et il a parlé de la lutte, de l'histoire du peuple angolais, de l'Angola que nous ne connaissions pas parce que loin de nos réalités. Maintenant, on a appris à découvrir qui était Agostinho Neto, l'histoire de l'Angola à l'époque. On a appris, le palestinien est venu, Yasser Arafat, au Burkina. On a appris à connaître, il y a des Palestiniens, voilà ce qu'ils ont subi, voilà. Toutes des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, parce qu'il faut dire aussi que notre formation est faite de telle sorte que on n'a pas cette ouverture-là au monde. C'est une formation qui est... Oui, on va dire, c'est pas fait exprès, mais c'est une formation qui ne permet pas de, oui, d'être ouvert au monde, d'avoir des informations par rapport au reste du monde. Donc c'était une façon de connaître ce qui se passe ailleurs pour nous. È proprio in questo clima che abbiamo conosciuto Arafat all'epoca, per cui abbiamo conosciuto la questione palestinese, abbiamo conosciuto l'allora presidente dell'Angola e la lotta di Agostinho Neto, abbiamo conosciuto appunto tante realtà essere, e questo ci permetteva di avere uno sguardo e di conoscere quello che succedeva nel resto del mondo, anche perché la nostra formazione, la nostra educazione scolastica è fatta in modo tale che non è che si studia a scuola quello che succede negli altri paesi. Ne sa in Italia, sei ancora pire. Proprio questo in Italia è ancora peggio. Noi ringraziamo, credo, Blandin Cabral. Io penso che le persone che hanno cercato. Blandin Cabral. Le persone che hanno cercato di veri. Blandin Cabral. Le persone che hanno cercato di cambiare veramente le cose in Africa non hanno avuto grande Nkrumah è stato abbattuto proprio perché andava contro gli interessi degli americani, sostanzialmente è stato il prezzo del cacao è stato fatto aumentare apposta perché l'ha portato via Cabral, lo sappiamo che cosa è successo. Sankara è stato, cioè là dove si è cercato veramente di andare controcorrente è stato molto difficile. Nel caso di Mandela lo si è permesso perché c'era 17 milioni di sudafricani potenziali consumatori, votanti e partecipanti, diciamo, al mondo dei consumi, e perché non era più possibile, insomma. Ma la tragedia di questa è la tragedia di personaggi importantissimi come Sankara in Africa. Il problema è che oggi, nell'Africa di oggi, ma direi nell'Europa di oggi, un personaggio come Sankara non è immediatamente percepibile, non si sa. Cioè, veramente, lei prima ci diceva come era difficile oggi in un Burkina Faso totalmente demotivato a livello di popolazione, eccetera, tornare quella forza di energia, di entusiasmo che ha permesso poi alla popolazione di partecipare a uno sforzo rivoluzionario che naturalmente, come tutti gli sforzi rivoluzionari, era ciclopico, c'erano anche molti oppositori, eccetera, però lui ha saputo trascinare le folle in un esperimento che però è durato soltanto 3-4 anni, perché poi dopo, quando sembrava che avesse una via di penetrazione reale, è stato fermato. Quindi io credo che il problema sia quello di avere questa grande ambizione c'è stato questo grande periodo di lotta anticoloniale, che il problema sia quello di unificare, cioè di non vedere l'altro, sanno che li vuole, se sanno che tanto non mi dico Gesù, se sa che tu entri in cosa, ti dico Gesù, partù al mondo, ogni poco fa. Se sul sacco non prendi tutto a certo. Di essere cittadini del mondo. Certo. Non è sociale il mondo, non è tu sociale. Tutto a fede. Giancarlo. Francesca, no, io parte prima di portare porto, anzi evidentemente, ho servito la fondazione, basso, ma che ovviamente è rappresentata anche dal professor Tiuzzi, il presidente Ippolito è scappato perché non riusciva ad attendere, a salutare, si scusa, aveva un impegno pressante. E comunque saluto tutti e lo faccio anch'io a nome della fondazione, grazie anche moltissimo della fondazione. Ho ascoltato con piacere, oltre che con interesse, e siamo veramente lieti di averla ospitata in fondazione e siamo convinti che sarà l'inizio di una storia di collaborazione, anche spero umana, di relazione. A Francesca però darei l'ultima parola, che voleva dire qualcosa. Io ringrazio Francesca perché è stata veramente messa sotto pressione con la sua francese. Ci tenevo che ci fosse un minimo di spazio. A Francesca si creava un cortocircuito perché non avremmo escluso in quel caso il bambino. Vorrei solo accennare al momento che c'è stato del 2014 dell'insurrezione, perché in Burkina c'è stato brevemente, Sankara è stato ucciso il 15 ottobre del 1987 da un comando guidato dal suo braccio destro, Blaise Compaoré, chiaramente con il sostegno estero. Ad oggi ancora non c'è chiarezza sulla sua uccisione. Il suo braccio destro ha preso il potere e è stato al potere per 27 anni. Per cui gestendo, diciamo, una apparente democrazia per 27 anni e rappresentando la Francia in Africa occidentale, è stato proprio l'appoggio forte della Francia in Africa occidentale per questi 27 anni. Fino a quando la popolazione burkinabè ha una volontà del presidente di voler cambiare un articolo della Costituzione che gli avrebbe permesso di potersi ripresentare per altri 15 anni, c'è stato un crescendo di malcontento durante tutto un anno intero, fino a che questo malcontento è esploso in una settimana di mobilitazioni incredibili a Ouaga, ma anche nel resto del paese, a Ouagadougou nella capitale, ma anche nel resto del paese, che ha portato alla cacciata di Blaise Compaoré. E questo è un momento molto importante, per cui è vero che c'è demotivazione. È vero che c'è demotivazione, è vero che bisognerebbe c'è questa forte volontà di alcune persone di ritornare proprio ai valori e alle azioni concrete fatte durante la rivoluzione. È vero anche che diciamo, i burkinabè sono una popolazione che hanno interiorizzato certe forme anche di lotta e di resistenza, per cui è anche sicuramente non c'è in questo momento non ci sono forme organizzate, anche perché la repressione durante i 27 anni era durissima, capillare, feroce, quindi la popolazione aveva difficoltà proprio a organizzarsi per a contrastare, fino a che c'è stata appunto questa esplosione. È stata veramente un'esplosione, per quello poi è riuscita a cacciare il dittatore. Diciamo, sono nuove forme anche di organizzazione per posare delle lotte, delle iniziative che abbiano una visione a lungo termine, che si stanno ricreando appunto dopo 27 anni di dittatura. La popolazione diciamo, ha bisogno, ecco, di tempo proprio per definire tutto questo. Però appunto c'è stato il momento dell'insurrezione, poi non se ne è parlato, chiaramente ispirazione sankarista, non c'era una persona in piazza ed erano milioni che non rivendicasse il nome di Sankara, i cartelli Sankara guarda ci siamo i tuoi figli, siamo i tuoi eredi, insomma è stato comunque molto forte. se prima poi tutti avevano paura a parlare di Sankara e del periodo rivoluzionario, dal giorno dopo erano tutti sankaristi, per cui c'è stata anche una liberazione perché effettivamente per tutto quello che ha detto Blandin ci si rende conto di quanto fosse tutto positivo all'epoca e di quanto poi una politica neoliberista colonizzata mentalmente, politicamente, economicamente non faccia che nuocere poi la vita anche quotidiana delle persone, e questo si riconosce. Per questo Blandin dice ripartiamo da là, è già stato tutto detto, è già stato tutto fatto, ripartiamo da là. Io avevo questa domanda, sapere il motivo del viaggio di Blandin in Italia. È un viaggio in Italia. C'è un modo per riportare il messaggio? Sì, ti la puoi pure portare il messaggio. En partie, mais j'ai été d'abord invitée par une organisation avec laquelle on a travaillé, l'organisation de Francesca Crick, et avec laquelle on a travaillé sur les questions d'éducation à la souveraineté alimentaire dans des écoles. Un beau projet qui est novateur au Burkina, qu'on est en train d'introduire au niveau du ministère de l'Éducation pour une réforme, et enfin pour dans les curricula, dans les écoles. Donc c'est dans ce cadre que je suis invitée, enfin par le CRIC, pour parler de coopération. È stata invitata da un ONG con la quale lavoro, il CRIC, e abbiamo realizzato dei progetti insieme in Burkina, in particolare sull'educazione alla sovranità alimentare nelle scuole, ed è un progetto talmente novatore e positivo che adesso il Ministero sta inserendo i moduli nel curriculum scolastico, insomma nel programma scolastico annuale, e perché non era stato in Burkina. E quindi sono stata invitata nell'ambito di questa collaborazione con l'ONG, e ci sarà un seminario a Genova dopodomani per parlare insomma, nell'ambito di un altro progetto su una narrazione positiva della cooperazione, però questo è un altro discorso. Voilà, donc j'ai profité en fait pour parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui au Burkina, on vit dans le monde aujourd'hui, et de parler de cette période. Je suis quelquefois mal à l'aise parce que je suis de la famille. Je parle de Thomas, je suis de sa famille, mais au-delà du fait d'être de sa famille, c'est que je vis comme tout Burkinabé, comme tout citoyen du monde, je vois ce qui se passe. Je suis capable aussi d'analyser et d'avoir mon point de vue. Donc c'est par rapport à ça que j'ai dit, moi, si je peux rencontrer aussi des organisations, des personnes avec qui je peux échanger sur ces questions-là, ce qui se passe dans le monde et au Burkina, comment on peut unifier nos énergies, comment on peut arriver à faire quelque chose de concret par rapport à ça, j'aimerais bien. C'est comme ça que j'ai demandé à rencontrer des Quindi, in parte, per rispondere alla tua domanda, sono stata invitata dal CRIC, però ne ho approfitto anche per incontrare persone con le quali sia possibile creare dei legami, delle sinergie, con le quali confrontarci su una stessa visione di quello che succede nel mondo. È vero che io sono della famiglia Sankara, però diciamo, anche il mio punto di vista, e mi rendo conto che oggi quella visione era importante, per cui è ancora importante parlarne oggi, appunto, e condividere percorsi con persone che lavorano più o meno con la stessa visione. Parce que Francesca a parlé de l'insurrection populaire, j'imagine c'est de ça qu'elle parlait, et tout le reste, mais ce dont je parle là, qui s'est passé dans les années 80, pendant les 4 ans sous la révolution, vous arrivez au Burkina aujourd'hui, ça se voit encore, surtout au niveau de la jeunesse. Vous avez des symboles, vous avez des manières de faire. Aujourd'hui, les autorités burkinabées s'habillent avec le tissu burkinabé. On est fiers de le porter une fois de nouveau. C'est comme si on se cherche, on est en train de chercher des voies. Donc on va revisiter un peu ce qui s'est passé. Donc il y a des actions de façon isolée comme ça qui se font, mais ça vient de cette période révolutionnaire là. abbiamo parlato dell'insurrezione popolare, dove appunto si sente questa eredità sankarista, ma quando arrivi in Burkina è visibile, magliette, murales è citato, per cui è presente e in qualche modo è come se stiamo cercando un po' la nostra strada. Ci sono le autorità pubbliche che si vestono di nuovo con il faso d'anfani, appunto gli abiti di tessitura locale. È come se stiamo cercando di recuperare adesso un po' la nostra identità. Dal 14, dopo il 14, dopo la transizione, a partire dell'insurrection, oui. Mais l'insurrection c'était dans le but de changer totalement un système. Malheureusement, on n'est pas arrivé à ça. On a fait partie un système, mais on n'a pas réussi à changer. C'est les hommes qui ont changé, mais le système est resté. Il problema, sì, da dopo il 14, il problema è che c'è stata questa insurrezione che voleva cacciare il dittatore, ma voleva anche cambiare il sistema, e purtroppo in questo non si è riusciti, per cui sono cambiate le persone al governo, ma non si è cambiato il sistema. Come diceva Nkrumah, dopo la rivoluzione in Ghana, l'indipendenza, gli autisti sono cambiati, sì, ma le macchine sono sempre le stesse. Nkrumah diceva, che volete fare? Gli autisti sono cambiati, ma le macchine sono sempre le stesse in Ghana nel 1900. 60, insomma, Ghana ha avuto l'indipendenza nel 57 e lui però dopo pochi anni è caduto perché gli autisti sono cambiati, ma la macchina ma un Burkina la machine c'est plus difficile, mais au Burkina on a espoir à la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse là qui revendique aujourd'hui l'histoire. C'est cette jeunesse là qui veut comprendre, c'est cette jeunesse là qui veut les choses autrement. Et c'est cette jeunesse-là qui a fait partir un gouvernement qui était indéboulonnable. On allait dire il était comme un dieu en Afrique de l'Ouest, ce président-là. Mais ce n'est pas les militaires, ce n'est pas aucune puissance, mais c'est la population qui l'a fait partir un midi, à main nue, sans rien, à main nue, qui l'ont fait partir. Et c'est cette jeunesse-là aujourd'hui qui manque de repères, parce qu'elle cherche un repère. Et c'est ce qui manque pour cette jeunesse-là. Mais on croit en elle, cette jeunesse qui était encore des pionniers à l'époque. Et voilà. Et quindi è quella stessa gioventù. La nostra speranza è proprio la gioventù, perché ha la forza, è proprio lei che chiede di rivalorizzare tutta la storia. È lei che è riuscita a cacciare a mani nude, quindi senza. Senza armi, senza rivoluzioni, senza niente, un dittatore che era veramente inattaccabile, perché era difeso su tutta la linea. E il problema è che questa gioventù adesso è un po' senza punti di riferimento. La même jeunesse au Soudan et en Algérie a chassé Bouteflika et le président au Soudan. Donc il faut voir. Oui, c'est vrai. Va bene. Grazie, grazie Blandine, grazie a voi per la vostra presenza. Merci a voi. Merci. Ah, sull'alimentazione, cibo. Sì. Ah, ça c'est là, sull'alimentazione. Merci bien. Merci beaucoup. La solidarité. Merci bien. Mi dispiace di averla. Giornalista. Tu fai quand même faire. Ah, ok. Dammi il telefono. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que le mien soit. C'est la Excuse me. Excuse me, do you speak English? Non, pas vraiment. Peut-être il peut m'aider, parce que lui parle bien français. Pour quanto tempo tu sei in Roma? Domani? No, por Genova. Je suis là jusqu'au 13. E Sandro. 13. Sandro. Francesca, vieni, quanto sta? Puoi fare una foto che poi le mando. Fino all'11. Vabbè, ma mica siamo così importanti da essere fotografati. Sai che stanno scendendo? Sì, a Napoli, via, via, via, via. Sì, è uscito. Ho capito, ora lo presenteremo a... Chiedo alla fondazione, io ho nulla a che fare con la libreria, che chiedo che se ricevi il materiale della fondazione, me lo ci no, all'albrio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ma fa piacere. Ah, io ti volevo dire. Ci sembra un piacere. Ma poi comunque è una rivista. Comunque è una rivista. Ces histoires de migration deux, en français et en anglais. En anglais. Et okay. Nous sommes en train d'assister les migrants. Et il y a aussi des Burkinabés. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Elle m'a raconté. Ouais. Et la majorité sont au sud, mais ceux qui sont au nord, c'est qu'ils sont OK. OK. Ils ont trouvé un endroit, un bon travail avec des droits reconnus. Quelques-uns sont même devenus italiens. Mais les autres qui sont au sud, dans le blé, là, à cueillir les tomates, les fameuses tomates, c'est trop difficile. Et le système maintenant est affreux. Enfin, malheureusement. On a la droite, le racisme au pouvoir. Oui, malheureusement, on n'en parle même pas au Burkina. Hein? Pourtant, il y a des Burkinabés ici. Donc, c'est de notre devoir aussi. Ah, oui, c'est notre devoir aussi. Mais aussi, le village, c'est le monde, et le monde, c'est un village. C'est vrai. Enfin,